Ad alta voce. Moni Ovadia legge Il nome della rosa di Umberto Eco. Primo giorno, sesta, dove Azzo ammira il portale della chiesa e Guglielmo ritrova Umbertino da Casale. La chiesa non era maestosa come le altre che vidi in seguito a Strasburgo, a Chartres, a Bamberga e a Parigi. Assomigliava piuttosto a quelle che avevo già visto in Italia, poco inclini ad elevarsi vertiginosamente verso il cielo e saldamente posate a terra, spesso più larghe che alte. Se non che, a un primo livello, essa era sormontata, come una rocca, da una serie di merli quadrati e sopra questo piano si elevava una seconda costruzione, più che una torre, una solida seconda chiesa sovrastata da un tetto a punta e traforata di severe finestre. Robusta chiesa abbaziale come ne costruivano i nostri antichi in Provenza e lingua d'oca, lontana dalle arditezze e dall'eccesso di ricami propri dello stile moderno, che solo in tempi più recenti, credo, si era arricchita, sopra il coro, di una guglia arditamente puntata verso la volta celeste. In quell'ora del giorno il sole pallido batteva quasi a picco sul tetto e la luce cadeva di sghimbescio sulla facciata senza illuminare il timpano. Così che, superate le due colonne, ci trovammo di colpo sotto la volta quasi silvestre delle arcate che si dipartivano dalla sequenza di colonne minori che proporzionalmente rinforzavano i contrafforti. Abituati finalmente gli occhi alla penombra, di colpo il muto discorso della pietra istoriata, accessibile com'era immediatamente alla vista e alla fantasia di chiunque, perché pictura est laicorum literatura, folgorò il mio sguardo e mi immerse in una visione di cui ancor oggi a stento la mia lingua riesce a dire. Vidi un trono posto nel cielo e uno assiso sul trono. Il viso dell'assiso era severo e impassibile, gli occhi spalancati e dardeggianti su di una umanità terrestre giunta alla fine della sua vicenda. I capelli e la barba maestosi che ricadevano sul petto come le acque di un fiume, in rivoli tutti uguali e simmetricamente bipartiti. Davanti al trono, sotto i piedi dell'assiso, scorreva un mare di cristallo e intorno all'assiso, intorno al trono e sopra il trono, quattro animali terribili, vidi, terribili per me che li guardavo rapito, ma docili e dolcissimi per l'assiso, di cui cantavano le lodi senza riposo. Ovvero, non tutti potevano dirsi terribili, perché bello e gentile mi apparve l'uomo che alla mia sinistra e alla destra dell'assiso porgeva un libro, ma orrenda mi parve dal lato opposto un'aquila, il becco dilatato, le piume irte disposte all'orica, gli artigli possenti, le grandi ali aperte. E ai piedi dell'assiso, sotto le due prime figure, altre due, un toro e un leone, ciascuno dei due mostri serrando tra gli artigli e gli zoccoli un libro. Attorno al trono, a fianco dei quattro animali e sotto i piedi dell'assiso, come visti in trasparenza sotto le acque del mare di cristallo, stavano 24 vegliardi su 24 piccoli troni rivestiti di vesti bianchi e coronati d'oro. Ma mentre l'anima mia, rapita da quel concerto di bellezze terrene e di maestosi segnali soprannaturali, stava per esplodere in un cantico di gioia, l'occhio, accompagnando il ritmo proporzionato dei rosoni fioriti ai piedi dei vegliardi, cadde sulle figure che, intrecciate, facevano tutt'uno con il pilastro centrale che sosteneva il timpano. Cos'erano e che simbolico messaggio comunicavano quelle tre coppie di leoni intrecciati a croce trasversalmente disposta, rampanti come archi, puntando le zampe posteriori sul terreno e poggiando le anteriori sul dorso del proprio compagno, la criniera arruffata in volute anguiformi, la bocca aperta in un ringhio minaccioso, legati al corpo stesso del pilastro da una pasta o un nido di viticci? A calmare il mio spirito, come forse erano posti ad ammaestrare la natura diabolica dei leoni e a trasformarla in simbolica allusione alle cose superiori, sui lati del pilastro erano due figure umane, innaturalmente lunghe quanto la stessa colonna, e vidi una femmina lussuriosa, nuda e scarnificata, rosa da rospi immondi, succhiata da serpenti, accoppiata ad un satiro dal ventre rigonfio e dalle gambe di grifo coperte di ispidi peli, la gola oscena che urlava la propria dannazione. E vidi una porta aperta nel cielo, e colui che era assiso mi parve come diaspro e sardonio, e un'iride avvolgeva il trono, e dal trono uscivano lampi e tuoni. E l'assiso prese nelle mani una falce affilata e gridò: «Vibra la tua falce e mieti! È giunta l'ora di mietere, perché è matura la messe della terra!» E colui che era assiso vibrò la sua falce e la terra fu mietuta. Fu allora che compresi che d'altro non parlava la visione se non di quanto stava avvenendo nell'abbazia e avevamo colto dalle labbra reticenti dell'abate. E quante volte nei giorni seguenti non tornai a contemplare il portale, sicuro di vivere la vicenda stessa che esso raccontava. E compresi che ivi eravamo saliti per essere testimoni di una grande e celeste carneficina. Tremai come fossi bagnato dalla pioggia gelida d'inverno e udii un'altra voce ancora, ma questa volta essa veniva dalle mie spalle. Ed era una voce diversa, perché partiva dalla terra e non dal centro sfolgorante della mia visione. E anzi, spezzava la visione, perché anche Guglielmo, a quel punto mi ravvidi della sua presenza, sino ad allora perduto nella contemplazione, si volgeva come me. L'essere alle nostre spalle pareva un monaco, anche se la tonaca sudicia e lacera lo faceva assomigliare piuttosto a un vagabondo. Sorrise, o almeno così credetti, e levando il dito come per ammonire disse: «Penitenziagite, vide quando Draco Venturus est a rodegarla l'anima tua. La morsa è super nost. Prega che ven lo Papa Santo a liberar nos a malo de todas le peccata. Ha ha, ve piase ista necromanzia de domini nostri Jesu Christi. E tanco joa mes dolce placer mes dolors. Cave il diavolo, semper maguaita in qualche canto per addentarme le carcagna. Ma Salvatore non est insipiens. Bonum monasterium, et a chi se magna, et se priega dominum nostrum, et il resto valet un figo seco. Et amen, no?» Dovrò nel proseguio di questa storia parlare ancora e molto di questa creatura e riferirne i discorsi. Confesso che mi riesce molto difficile farlo, perché non saprei dire ora, come non compresi mai allora, che genere di lingua egli parlasse. Quando più tardi appresi della sua vita avventurosa e dei vari luoghi in cui era vissuto, senza trovar radici in alcuno, mi resi conto che Salvatore parlava tutte le lingue e nessuna, ovvero si era inventata una lingua propria che usava i lacerti delle lingue con cui era entrato in contatto, e una volta pensai che la sua fosse non la lingua adamica che l'umanità felice aveva parlato, tutti uniti da una sola favella, dalle origini del mondo sino alla Torre di Babele, e nemmeno una delle lingue sorte dopo il funesto evento della loro divisione, ma proprio la lingua babelica del primo giorno dopo il castigo divino, la lingua della confusione primeva. Né, d'altra parte, potrei chiamare lingua la favella di Salvatore, perché in ogni lingua umana vi sono delle regole e ogni termine significa ad placitum una cosa, secondo una legge che non muta. perché l'uomo non può chiamare il cane una volta cane e una volta gatto, né pronunciare suoni a cui il consenso delle genti non abbia assegnato un senso definito, come accadrebbe a chi dicesse la parola blitiri. E tuttavia, bene o male, io capivo cosa Salvatore volesse intendere, e così gli altri. Segno che egli parlava non una, ma tutte le lingue, nessuna nel modo giusto, prendendo le sue parole ora dall'una, ora dall'altra. In quel momento in cui lo incontrai per la prima volta, Salvatore mi apparve un essere non dissimile dagli incroci pelosi e ungulati che avevo appena visto sotto il portale. Più tardi mi accorsi che l'uomo era forse di buon cuore e di umore faceto. Più tardi ancora, ma andiamo per ordine. Il mio maestro lo interrogò con molta curiosità. «Perché hai detto penitenziagite?» chiese. «Sei venuto qui da un convento di minoriti?» «Non intendo! Chiedo se sei vissuto tra i frati di Santo Francesco. Chiedo se hai conosciuto i cosiddetti apostoli.» Salvatore impallidì, ovvero il suo muso abbronzato divenne grigio. Fece un profondo inchino, pronunciò a mezze labbra un «Vade retro!» Si segnò devotamente e fuggì, voltandosi indietro ogni tanto. «Cosa gli avete chiesto?» domandai a Guglielmo. Egli restò un poco soprapensiero. «Non importa, te lo dirò dopo. Ora entriamo, voglio trovare Ubertino.» Era da poco trascorsa l'ora sesta. Il sole, pallido, penetrava da occidente e quindi da poche sottili finestre nell'interno della chiesa. Una striscia sottile di luce toccava ancora l'altare maggiore, il cui paliotto mi parve rilucere di un fulgore aureo. Le navate laterali erano immerse nella penombra. Presso all'ultima cappella prima dell'altare, nella navata di sinistra, si ergeva una esile colonna su cui stava una vergine in pietra. Ai piedi della vergine, in preghiera, quasi prostrato, stava un uomo vestito con gli abiti dell'ordine cluniacense. Ci appressammo. L'uomo, udendo il rumore dei nostri passi, alzò il capo. Sembrava una fanciulla avvizzita da una morte precoce. Posò su di noi uno sguardo dapprima smarrito, come lo avessimo disturbato in una visione estatica. Poi gli occhi gli si illuminarono di gioia. «Guglielmo!» esclamò. «Fratello mio carissimo!» Si alzò a fatica e si fece incontro al mio maestro, abbracciandolo e baciandolo sulla bocca. «Guglielmo!» ripeté. E gli occhi gli si inumidirono di pianto. «Quanto tempo! Ma ti riconosco ancora. Quanto tempo! Quante vicende! Quante prove che il Signore ci ha imposto!» Pianse. Guglielmo gli rese l'abbraccio, evidentemente commosso. Ci trovavamo davanti a Ubertino da Casale. Di lui avevo già sentito parlare a lungo, anche prima di venire in Italia, e ancor più frequentando i francescani della corte imperiale. Qualcuno mi aveva persino detto che il più grande poeta di quei tempi, Dante Alighieri da Firenze, morto da pochi anni, aveva composto un poema, che io non potei leggere perché era scritto nel volgare toscano, a cui avevano posto mano e cielo e terra, e di cui molti versi altro non erano che una parafrasi di brani scritti da Ubertino nel suo Arbor Vitae Crucifixe. Né questo era il solo titolo di merito di quell'uomo famoso. Ma per permettere al mio lettore di capire meglio l'importanza di quell'incontro, dovrò cercare di ricostruire le vicende di quegli anni. Santo Francesco aveva diffuso un amore di povertà che non contraddiceva i precetti della Chiesa e per opera sua la Chiesa aveva accolto il richiamo alla severità dei costumi di quegli antichi movimenti e li aveva purificati dagli elementi di disordine che si annidavano in essi. avrebbe dovuto seguirne un'epoca di mitezza e santità. Ma, come l'ordine francescano cresceva e attirava a sé gli uomini migliori, esso diveniva troppo potente e legato ad affari terreni, e molti francescani vollero riportarlo alla purezza di un tempo. Cosa assai difficile per un ordine che ai tempi in cui ero all'abbazia già contava più di 30.000 membri sparsi in tutto il mondo. Sorse così tra loro una schiera di sostenitori della regola antica, a tal segno che, quando il concilio di Lione, salvando l'ordine francescano contro chi lo voleva abolire, gli concesse la proprietà di tutti i beni che aveva in uso, alcuni frati nelle Marche si ribellarono perché ritenevano che un francescano non dovesse possedere nulla, né personalmente, né come convento, né come ordine. Mi dissero che, anni dopo, il nuovo generale dell'ordine, Raimondo Gaufredi, trovasse questi prigionieri ad Ancona e, liberandoli, dicesse: «Volesse Dio che tutti noi e tutto l'ordine fossimo macchiati di tale colpa!» C'era tra questi prigionieri liberati Angelo Clareno, che si incontrò poi con un frate di Provenza, Pietro di Giovanni Olivi, che predicava le profezie di Gioacchino, e poi con Ubertino da Casale, e di lì nacque il movimento degli spirituali. Saliva in quegli anni al soglio pontificio un eremita santissimo, Pietro da Morrone, che regnò come Celestino V e fu accolto con sollievo dagli spirituali. «Apparirà un santo!» era stato detto. «E osserverà gli insegnamenti di Cristo, sarà di angelica vita, tremate prelati corrotti!» Forse Celestino era di vita troppo angelica, o i prelati intorno a lui erano troppo corrotti, o lui non riusciva a sopportare la tensione di una guerra troppo lunga con l'imperatore e con gli altri re d'Europa. Fatto è che rinunciò alla tiara pontificia e si ritirò in romitaggio. Celestino V fu sostituito da Bonifacio VIII e questo papa si affrettò a dimostrare scarsissima indulgenza per spirituali e fraticelli in genere. Gli spirituali tentarono poi di ottenere il consenso di altri pontefici, come Clemente V, per potersi staccare dall'ordine in modo non violento, ma l'avvento di Giovanni XXII tolse loro ogni speranza. Come fu eletto nel 1316, fece mettere in ceppi Angelo Clareno e gli spirituali di Provenza, e tra coloro che insistevano nel condurre una vita libera, molti erano stati bruciati. Giovanni aveva però capito che, per distruggere la mala pianta dei fraticelli, bisognava condannare come eretica l'idea che Cristo e gli apostoli non avessero mai avuto alcuna proprietà né individuale né in comune. E siccome, proprio un anno prima, il capitolo generale dei francescani a Perugia aveva sostenuto questa opinione condannando i fraticelli, il Papa condannava l'ordine intero. Parrebbe strano che un papa ritenesse perversa l'idea che Cristo fosse povero, ma era chiaro che dal sostenere la povertà di Cristo al sostenere la povertà della sua Chiesa, il passo era breve e una Chiesa povera sarebbe diventata debole a petto dell'imperatore. Così, da allora, molti fraticelli, che non sapevano nulla né di impero né di Perugia, morirono sul rogo. Queste cose pensavo guardando un personaggio leggendario come Ubertino. Il mio maestro mi aveva presentato e il vecchio mi aveva accarezzato una gota con una mano calda, quasi ardente. Al tocco di quella mano avevo capito molte delle cose che avevo udito su quel sant'uomo. Comprendevo il fuoco mistico che lo aveva divorato sin dalla giovinezza, quando aveva immaginato di essere trasformato nella penitente Maddalena, e i rapporti intensi che aveva avuto con la Santa Angela da Foligno, dalla quale era stato iniziato all'adorazione della croce. Scrutavo quei tratti delicati come quelli della Santa con cui era stato in fraterno commercio di spiritualissimi sensi. Intuivo che doveva aver saputo assumere sembianze ben più dure quando, nel 1311, il Concilio di Vienna aveva eliminato i superiori francescani ostili agli spirituali, ma aveva imposto a questi di vivere in pace in seno all'ordine. E questo campione della rinuncia non aveva accettato il compromesso e si era battuto perché fosse costituito un ordine indipendente ispirato al massimo del rigore. Ubertino aveva allora perduto la sua battaglia, perché in quegli anni Giovanni XXII proponeva una crociata contro i seguaci di Pietro di Giovanni Olivi, ma Ubertino non aveva esitato a difendere di fronte al Papa la memoria dell'amico e il Papa, soggiogato dalla sua santità, non aveva osato condannare lui, anche se aveva poi condannato gli altri. In quell'occasione anzi gli aveva offerto una via di salvezza spingendolo a entrare nell'ordine cluniacense. Nel pomeriggio avevo appreso dal dialogo tra Guglielmo e l'abate che egli era ora nascosto in questa abbazia e ora lo vedevo davanti a me. «Guglielmo», stava dicendo, «erano sul punto di uccidermi, sai? Ho dovuto fuggire nottetempo». «Chi ti voleva morto? Giovanni?» «No, Giovanni non mi ha mai amato, ma mi ha sempre rispettato. In fondo è lui che mi ha offerto un modo di sfuggire al processo 10 anni fa, imponendomi di entrare nei benedettini». «E allora chi ti voleva male?» «Tutti. La curia. Hanno tentato di assassinarmi 2 volte. Hanno tentato di farmi tacere. Tu sai cosa è avvenuto 5 anni fa. Erano stati condannati da 2 anni i Beghini di Narbona e Berengario Talloni, che pure era uno dei giudici. Si era appellato al Papa. Erano momenti difficili. Giovanni aveva già emesso 2 bolle contro gli spirituali e lo stesso Michele da Cesena aveva ceduto. A proposito, quando arriva?» «Sarà qui tra 2 giorni». «Michele, è tanto che non lo vedo. Ora si è ravveduto. Capisce cosa volevamo. Il capitolo di Perugia ci ha dato ragione. Ma allora, ancora nel 1318, ha ceduto al Papa e gli ha messo nelle mani 5 spirituali di Provenza che resistevano alla sottomissione. Bruciati, Guglielmo! Ah, è orribile!» Si nascose il capo tra le mani. «Ma cosa è avvenuto esattamente dopo l'appello del Talloni?» chiese Guglielmo. «Giovanni doveva riaprire il dibattito, capisci? Doveva, perché anche in curia c'erano uomini presi dal dubbio, anche i francescani della curia, farisei, sepolcri imbiancati, pronti a vendersi per una prebenda, ma erano presi dal dubbio. Fu allora che Giovanni mi chiese di stendere una memoria sulla povertà. Fu una cosa bella, Guglielmo. Dio mi perdoni la superbia». Moni Ovadia ha letto Il nome della rosa di Umberto Eco. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio. Regia di Chiara D'Ambros. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.